Lupon Air, Summer Spurgo. This is not our show. This is not our show. This is not our show, neither it's alright. This is not our show. This is not our show. This is not our show, neither it's all. Lupon Air, Summer Spurgo, seconda stagione, perché l'estate non ci si ferma, la musica continua a uscire, gli hard disk continuano a mucchiarmisi della merda che producete voi, che mi viene mandata dai vostri amici, per cui anche se Lupon Air, la nostra trasmissione radio condotta da me e Flamy, la cui voce avete ascoltato all'inizio di questa trasmissione, anche se noi siamo fermi fino a settembre, continuiamo settimanalmente a proporvi la nostra selezione musicale in questa forma qua, quindi registrata quando cazzo ci pare e pubblicata il giovedì. Abbiamo iniziato il primo episodio della seconda stagione con i Nordar, che sono un gruppo di IBM old school che hanno fatto un paio, ovviamente crucchi, che hanno ho realizzato un paio di album in sordina nei primi anni 10, poi hanno detto ma sai che, ma buttamola sull'antagonismo totale, e così da poco è uscito questo nuovo album intitolato Capital Marx, di cui abbiamo ascoltato il brano che dà il titolo all'album, appunto Capital Marx, prodotto da questa Straight Ahead Movement, che credo che sia una così un'etichetta di IBM militante, una cosa di cui avevamo bisogno, devo dire. Forse avevamo un po' meno bisogno del Purgatorial, ma è sempre un piacere, perché è una one man band dal Regno Unito, da Manchester, che però fa death metal, misto death e black metal, e quindi non è con le solite cose di Manchester, insomma. Hanno pubblicato un album per la This Ends Melt, intitolato Fading Whispers of Voidbound Souls, e ci ascoltiamo questo splendido brano intitolato Call of the Void, Purgatorial. Bro! gruppo Nair Sammersburgo. Ebbene, questi che abbiamo ascoltato in questo momento è un collettivo di artisti composto, cioè viene dagli Stati Uniti, perché sono Matterelli degli Stati Uniti, composto da Seth Graham, Maurice e Recovery Girl. Chi sono questi qua? Bella domanda. Diciamo che insieme hanno creato questo collettivo chiamato TTTTATATTATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT underscore. Perché l'abbiamo mandati? Perché non sapevo dove mettere, mi dava fastidio questa sigla nell'elenco dei brani da mandare prima o poi, quindi lo abbiamo subito eliminati, grazie ai titititatatititatata per con il brano Night of Fire che dava il titolo al loro album, a mai più rivederci. E ora largo ai giovani con Absteige. Nell'ultimo viaggetto in Germania che ho fatto per il corso di aggiornamento in Dark Etonia, nella mia giornata di chill out a Berlino sono passato allo Schokoladen, dove erano previsti dei live di post-punk, noi e Deutsche Welle, no? La new wave tedesca. Beh, sarà giusto ricovero dopo un festival dedicato praticamente a queste sonorità, così facciamo un rilassamento, più o meno rimanendo in tono. Sarà probabilmente questo locale, ho pensato, avrà creato una trappola apposta per tutto il flusso di turisti che vengono in Germania per il festival Dark Attorno, li captiamo un po', così li facciamo contenti prima che ripartono verso le rispettive case. E invece no, perché, o meglio, se era una trappola è andata malissimo, poi siamo cascati io e un altro con una barba di mezzo metro e gli anfibi da 14 buchi, perché c'era sfuggita una N, non era Neue Deutsche Welle, ma Neue Deutsche Welle, che è un nuovo stile musicale, che è la nuova onda tedesca, la new wave tedesca, che fondamentalmente sono giovani pensierosi, non giovani spensierati come questi qua che fanno la trap, parlano di scarpe, mignotte, droga. Questi qua parlano di problemi esistenziali, di nessuno mi vuole bene, quindi un po' emo, un po' dark wave, un po' fai da te. C'è questa attitudine do it yourself che mi ha colpito piacevolmente. E a quanto pare Absteige, che era l'headliner di quella serata, è anche uno degli artisti più di punta, però a vederlo sembra gli resti un soldo di fiducia. Beh, vabbè, comunque sì, ascoltiamo un suo singolo recentissimo chiamato Nachtbus. Absteige. Ich bin allein, doch das ist okay. Ich weiß nicht, wo ich weiß nicht, wo ich bin. Wie kann es sein, dass ich heute nicht bei dir bin? Allein, allein, ich fühle mich so allein. Ich hab dir doch meine Nummer gegeben. Ruf mich an, bitte nur einmal. Doch wieder nichts, also ist das eben. Komm, ruf mich an, bitte nur einmal. Ich Poner Summer Spurgo. We'll be right back. da quanto tempo ci mancavano? No, veramente no, cioè nessuno ha pensato a Billy Boy e la sua banda mentre non c'erano, ma adesso che sono tornati siamo tutti contenti. È una band di Piacenza, storica di punk o italiano, storica almeno, cioè non è che sono vecchissimi come i Nabat, però sono vecchi. E niente, è uscito adesso dopo più di 10 anni attesa dall'ultima pubblicazione, molti più, no, ma anche 20 direi, perché era uscita una compilation nel 2010 qualcosa. Ma questo è un EP di 4 brani, omonimo di Billy Boy e la sua banda, pubblicato da Amphibio Records, che contiene brani che parlano semplicemente di bevute. Diciamo che questo brano che abbiamo ascoltato ora si chiama Shamrock, che immagino a occhio che possa essere il pub di riferimento di questi giovanotti. Oi. E va bene, bravi che continuate a bere, perché in estate bisogna bere molto, ce lo dicono anche a TG, e chissà se lo dicono anche a Trotica. A Trotica dicono che bisogna bere molto e non solo, ed è da quell'ambiente lì che escono fuori i Low Quality Life, che sono una sedicente birra di... una sedicente band di grunge da birra da discount e di emo da pietra magica. Adesso cos'è questa pietra magica? Lo dovete scoprire, o meglio, basta, se siete elettronica avete già capito. Comunque è una band, un super gruppo di... sì, emo hardcore, emo grunge... che per ora si è espressa con un unico brano, che io sappia almeno, che è questo che ascoltiamo adesso, Adrift in a Cosmic Tide. Loro sono in Low Quality Life. We'll be right back. Lupo Nero, Summerspurgo. Sentite come si sente meglio la mia voce quest'anno rispetto ai precedenti? Perché i miei amichetti mi hanno regalato sto piro, c'è un totem qui davanti a forma di microfono o un microfono a forma di totem, non saprei, che io ci parlo dentro e questo mi registra anche a una distanza decente. Cioè se voi lo vedeste pensereste male di me, invece tipo che sono un influencer, invece sto qui usando sta roba che funziona, devo dire, bene, bene. Comunque, torniamo alla musica, stiamo ascoltando Marie Cartman. Marie Cartman viene da Boston, Massachusetts, USA, è un artista che fa così, misto dark wave, electro, fai da te insomma, del pop elettronico. Lei dice pure balli russi, adesso non so quanto prenda sul serio. Comunque dall'album Ear of a Cat, uscito da poco pochissimo, abbiamo ascoltato il brano Little Bullet Girl. E ora da Bruxelles, perché nonostante sia in francese, il nome è francese, ma se piave, ho scoperto questa cosa negli anni, se qualcosa che è francofono ha un effetto positivo sulla mia persona, vuol dire che è belga. Infatti, pornografie exclusive so di Bruxelles, Belgio, si vengono presentati dal Antibody, una etichetta che fa robe malamente, tra Cold Wave e Electro Rock, dall'album omonimo di Pornography Exclusive, ascoltiamo ora il brano Crux. Sammersburgo. Thank you. Negli ambienti metallari non si è fatto che parlare di questo Draugweil negli ultimi tempi. Perché? Che ha fatto sto tipetto? Questo tipetto, da Praga, Repubblica Ceca, ha pubblicato un album intitolato, il suo primo album, cioè l'album di debutto, intitolato Cruel World of Dreams and Fears, che è di black metal melodico ma manco troppo, con sonorità molto grezze, old school, diciamo, ma dalle tematiche romantiche che traspaiono anche dalla copertina, in cui c'è lui col face painting in armatura di piastre completa, che in quanto pesantissima non ce la fa stare in piedi, era sdraiato su un letto di rose che nascono dal prato, cioè una roba completamente artificiale, la sta spada. Secondo me, cioè, è un po' ridicolo, è vero, ma tutte le copertine di black metal sono ridicole, altrimenti non ti ci prendono. E quindi che, boh, che posso al massimo rinfacciargli che l'ha fatta a colori, ecco. Abbiamo ascoltato il brano Etched Out di Draugweil, dai, ce la puoi fare, roseo futuro a te. Ora passiamo a un altro caso umano, Gonzalo Schwind, in arte Deus Ex Lumina, come dice il nome, Gonzalo Schwind, residente a Berlino, ma viene da Buenos Aires. Chissà che giro hanno fatto i nonni. Adesso, senza farci troppe domande indiscrete, costui ha suonato quest'anno al Moritz Bastai, al Gothic Treffen, dove c'era un botto di gente, manco ci ho provato ad avvicinarmi, per cui me lo sono ascoltato a casa. In realtà non è che ci abbia un repertorio chissà quanto creativo, però c'è sto pezzo che è talmente esagerato che mi ha conquistato. Dead House, Deus Ex Lumina. arrivano da Lozzo a Testino, un paesello che loro danno per scontato che sappiamo dov'è, Lozzo a Testino, perché dovrei saperlo, sta in provincia di Padova, loro sono i Buena Madera, fanno così sto rock tra metal, stoner e progressive, si sono proposti di, vi prego, mandateci al Luponer Summersburgo, noi subito nessun problema, abbiamo ascoltato il brano Vana e siamo arrivati a questo, al termine di questo primo episodio della seconda stagione di Luponer Summersburgo. La voce di Vanni e quella di Frami no, l'ascoltate solo all'inizio perché lui torna a settembre, nel frattempo perché sto qui a casa mia con questo pirellone microfonone qui davanti che mi fa funzionare bene la voce. E vi saluto con brano No Estamos Solos di Robert Cosmic, mito della techno di Madrid, Spagna naturalmente. E niente, a occhio a giovedì prossimo, se tutto va bene, ma tutto andrà bene, porca madonna. Imperios, mil destinos, mil imperios. No estamos solos. Lupo Nero Summerspurgo.